Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24. Con taglio da magazine, da reportage, da inchiesta, un approfondimento quotidiano sulla cronaca italiana, sui casi di nera giudiziaria, sulla politica, ma anche sullo spettacolo e la cultura. Questa è la storia di Giuseppe Ayala, magistrato antimafia che si cimenta in questi giorni con il teatro civile. Lo ha incontrato per noi Emilio Buttaro a Bologna. A distanza di quasi 20 anni da quel drammatico 1992, Giuseppe Ayala ha deciso di raccontare la sua verità. Così, dopo aver scritto un libro su quel periodo vissuto al fianco di Falcone e Borsellino, l'ex magistrato del pool antimafia di Palermo si è voluto mettere alla prova con un nuovo mezzo comunicativo, il teatro. Chi ha paura muore ogni giorno è la storia di quegli anni, ma è anche il racconto di una straordinaria esperienza professionale e di amicizia, una storia di vittorie enormi e di fallimenti, di tanti luoghi comuni e di speranze. Siamo riusciti nella trasposizione teatrale a mantenere quella che secondo me sono le caratteristiche essenziali del libro, cioè la ragione per cui ho scritto questo libro che ripercorre tutta la storia del polo antimafia, vista da dentro naturalmente perché l'ho vissuta tutta, ma soprattutto ricostruendo gli accadimenti con grande puntualità e precisione. La cosa fondamentale è questa: nell'immaginario collettivo, in maniera del tutto comprensibile per carità, quella storia veniva ormai ricostruita sinteticamente in questa maniera. Negli anni 80, in una Palermo devastata dalla mafia, un gruppo di giovani magistrati bravissimi, bla bla bla, fecero delle cose che prima non si erano mai fatte, il maxi processo soprattutto. Poi nel 92 la mafia eliminò i due componenti più rappresentativi di questa squadra, diciamo, di magistrati, e lì la storia è finita. Ora, questo è un falso storico, e la verità va ristabilita, nel senso che noi non siamo stati mai fermati dalla mafia. Noi siamo stati fermati da alcune istituzioni dello Stato, e non nel 92, ma 3-4 anni prima. Questo è una memoria che non va dispersa, anche se mi rendo conto che è scomoda, se non addirittura sgradevole, ma la storia è quella che è, non si può edulcorare. La seconda ragione per cui ho scritto il libro, e credo che venga fuori anche nella trasposizione teatrale, è quella che io ho voluto raccontare l'aspetto umano di questa che io definisco ancora oggi un'avventura, nel senso che Falcone e Borsellino soprattutto rimarranno, come giusto che sia, due simboli di questo paese. Però i simboli col passare del tempo fatalmente si allontanano, vengono mantenuti nel ricordo ma diventano freddi, e io invece ho voluto raccontare gli uomini, non il magistrato Falcone o il magistrato Borsellino, ma l'uomo Falcone, l'uomo Borsellino. E l'ho voluto fare anche perché posso assicurare che come uomini, se si potesse fare questa classifica, erano ancora meglio, ancora di più di quello che sono stati come magistrati e come servitori dello Stato. A distanza di anni mi sono reso conto che la paura ha una sua trasmissione circolare. Ognuno di noi portava il suo pezzetto e avvertiva quello che c'era negli altri. Ecco, quale le sembra l'effetto che viene percepito dal pubblico? Il commento più frequente, a prescindere dalla localizzazione geografica del posto dove sono, è il seguente: un pugno allo stomaco. È la frase che mi sento dire più spesso alla fine dello spettacolo, e me lo do una ragione: molti comprensibilmente avevano perduto la percezione esatta di come erano andate le cose. E poi c'è tutta la componente dei giovani, cioè di quelli che nel 92 erano appena nati o comunque forse neanche nati, ma oggi hanno 18 anni. Però mi sembra un pubblico che alla fine se ne va, diciamo, con la convinzione di avere colmato un vuoto, di avere capito meglio quello che comunque rimane un pezzo importante della storia d'Italia del XX secolo, ma non soltanto per l'uccisione di Falcone e Borsellino e degli altri che erano con loro, ma per quello che in vita hanno fatto Falcone e Borsellino, perché quello è il ricordo vero che noi dobbiamo tenere vivo. Riflettendo dopo molti anni su quel pomeriggio mi sono detto: ma se io a un certo punto avessi detto, ragazzi fermi, io ho un problema, ho 3 figli e li vorrei vedere crescere, che cosa avrebbero potuto obiettarmi? Io non lo saprò mai, perché quella frase non solo l'ho detta, ma non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello. Italia in controluce. E in libreria, per Chiare Lettere, il cofanetto Ai confini del mondo di Giorgio Fornoni è dedicato al viaggio, alle inchieste, alla vita di un reporter non comune. Insieme al libro c'è anche un DVD con un film di Gianandrea Tintori. Ma chi è Giorgio Fornoni? Marta Cagnolo l'ho intervistato per Italia in Controluce. Sono molti i confini del mondo. Potremmo definire, uno è quello per esempio quando ho seguito, no, che ho fatto un'inchiesta sulla pena di morte nel mondo, dove chiaramente i confini di un mondo riguarda direttamente il condannato a morte. I confini del mondo sono anche quelli quando tu arrivi in prima linea e quando finisce la prima linea prima di entrare nell'altra, e i confini di un mondo, proprio dove sta in mezzo della guerra, dove c'è la sofferenza dell'uomo che è quello che paga. Capisci? E questa è la cosa che mi ha sempre un po' turbato, e per quello che ho sempre cercato di seguire sia la parte dei governi, dei militari, come dall'altra parte la guerriglia, ma da sempre, diciamo, se c'è un potere da una parte e dall'altra, in mezzo c'è chi soffre e soffre la prepotenza di queste guerre. Ecco, quindi questo è un altro grande confine, e un altro confine è chiaramente quello dell'orizzonte, perché quando viaggi vai lontano, e dove arrivi ai confini del mondo. Io e Capon abbiamo deciso di andare dove c'era, proprio in mezzo alle scaramucce, non né da una parte, proprio in mezzo alle scaramucce, tant'è che addirittura io a un certo punto parto da una prima linea e vado all'altra prima linea, che faccio con le braccia alzate così, no? Per farmi vedere dagli altri, perché infatti i giornalisti non erano questi, l'obiettivo per quella gente non erano i giornalisti, un po' la roba dei incoscienti, ecco. Però lì abbiamo avuto fortuna, facendo questo lavoro, di beccare le due prime linee ed andare addirittura, finita la battaglia, a raccogliere le immagini dei saccheggi. Dopo la battaglia cosa rimane? Insomma, rimane quel bottino che poi si spartiscono i guerriglieri, quella guerriglia. Io dico sempre che il mestiere del reporter è il più bello al mondo. Io ci sono arrivato un po', non dico per caso, però un po' costruendo pian piano questa strada, insomma, ecco. Quando ero giovane facevo il garzone di bottega, 14 anni fino ai 18, quindi 12 ore e mezza al giorno, dai 18 ai 23 mi hanno fatto fare il capetto, però lì ho avuto voglia di uscire un po' da quel mondo, perché mi stava veramente tutto stretto. Ho cominciato a studiare serale, ho fatto la ragioneria, poi ho fatto economia e commercio, poi mi ero iscritto a Venezia lingua e letteratura orientali perché volevo fare l'archeologo, studiare così un po' la storia del passato. Sono molto legato all'archeologia, però da quando sono arrivato in Vietnam, nei primi anni 80, quando era ancora chiuso, e ho visto al Museo degli Orrori e Crimini di Guerra tutti i disastri che avevo combinato il napalm, poi un po' da lì anche altre situazioni, ero stato in Iraq quando si stava preparando la guerra e così via, e queste cose mi ha coinvolto, poi i vari missionari e così via, no? Che erano vicini a queste sofferenze, e mi hanno portato pian pianino a camminare verso questo destino, e così, che vuol dire che mi dà tanto. Questa non è una guerra convenzionale, combattiamo solo per difendere le nostre vite. Io spero che voi come giornalisti possiate raccontare come stanno veramente le cose. Questo non è un problema per me, ma lo è per la nostra gente, e la comunità internazionale dovrebbe intervenire. Senti sempre il bisogno di partire, ma anche il bisogno di tornare, visto che sei legato, certo, alla tua terra. Come ti sembra l'Italia, come ti sembra il mondo in cui sei nato? Mamma mia, se io ritorno vuol dire che per me è il posto più bello al mondo, però dall'altra parte vorrei tanto che riuscissimo a entrare maggiormente in un concetto proprio di dimensione, di dignità umana. Questo sì, lo vorrei sempre tanto, però non è sempre facile. Faccio un esempio: quando ho fatto un'inchiesta sullo sfruttamento del petrolio nel delta del Niger, no? Quando ho visto quella sofferenza di quella gente, questo inquinamento, no? Avevo intervistato anche lì il capo del MEND, e poi tutto questo gas flaring, no, che viene bruciato mutando fra l'altro in atmosfera il CO2 talmente tanto che è pari al 3% dal livello globale, ecco, quando tutto questo inquinamento, dico, se questo qui è il costo che deve pagare questa gente per avere noi la nostra ricchezza, per avere noi questa, no, questo, il petrolio e così via, dico, arrivo a casa, cerco di limitare, di spostarmi in macchina e così via, quando arrivo qui non è facile. Capisci? Cioè, questa è un po' la cosa, non so, c'è un qualcosa che quasi proibisce di mettere in atto, in pratica, ciò che desidereremmo fare. Ecco, questo bombardamento del consumismo un po' anche, non lo so, ecco, dovremmo veramente imparare a vivere correndo meno e vivere proprio meno asetticamente, perché se corriamo rischiamo di perdere il gusto della vita. Italia in Controluce termina qui, ricordo radio24.it è il nostro sito dove potete trovare anche il nostro blog, poi su Facebook c'è il gruppo Radio 24 Italia in Controluce. Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.